si yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Le pressioni che sto ricevendo da parte del pubblico, soprattutto lo vedo questa mattina su Facebook, sarebbe di continuare a parlare della banda di Sanremo. So che ieri ci sono stati momenti favolosi, indimenticabili, che a me farebbe veramente piacere e divertimento eternare, ma ho avuto una spiacevolissima impressione, almeno ieri sera, devo dire quasi un centinaio di ascoltatori mi hanno scritto entusiasti per quello che stava accadendo a Sanremo, dicendo non l'avremmo mai guardato stasera, ma ci ha talmente incuriosito parlando dentro la radio che abbiamo avuto bisogno, sentito il bisogno, una sorta di effetto terrificante di guardarlo. Quindi oggi farò qualcosa, vi passerà, farà passare la voglia comunque di guardare, di divertirvi, di ascoltare, di fare facezze su ciò che vedete in televisione. Perché la cosa, l'argomento, lo spettro emotivo che evocherò questa mattina è stato molte volte, molto spesso, riverberato in televisione. Vediamo se capite di cosa si tratta. È una storia di banditi, una storia di gangster, come quelle che si vedono nei film con Al Capone o Joe Dillinger, il nemico pubblico numero uno. Solo che qui non siamo a Chicago negli anni 30, ma siamo a Roma, a cavallo tra gli anni 70 e 80. E i protagonisti della nostra storia non si chiamano Albert Anastasia o Machine Gun Kelly, ma Franco Giuseppucci de Tornegro, Gianfranco Erpantera o Franchino il Criminale. Attenzione però, questa è una storia di omicidi, di droga e di soldi. È una storia di vendette, di tradimenti e di pentimenti. E non solo, questo è un mistero italiano. E come tutti i misteri italiani, nasconde sempre qualcosa di più, qualcosa che ci riguarda tutti e che fa paura. Avete capito? Non avete ancora capito? 800240024, vediamo chi di voi è perspicace e riesce in questi pochi istanti a capire di cosa stiamo parlando. Vorrei aiutarvi, do un piccolo aiutino. Nell'elenco delle persone elencate dall'ottimo Lucarelli, probabilmente ne manca uno che ha molte affinità e molti punti di contatto con la persona che vi sta parlando in questo momento, ma vi assicuro, non è assolutamente mio parente. Sapete che la polizia si è bevuta il bavoso al bar di Dormanancia? Il nome del cazzo si porta presso una vita del cazzo, per questo che noi il nome lo sapremo scegliere da soli. A me, per esempio, mi piacerebbe Grana. Grana? Per via dei soldi, che sarà il primo pensiero mio quando mi sveglio. I soldi. A me chiamatemi Ursula Andres, è il primo pensiero mio, certezza indecia. Ma tu non ti chiami già Dandy? Sì, da grande voglio essere come Fred Astaire, il frac pure a colazione. Si dice così, no? Un Dandy. Oh, ma che cazzo ne so. So solo che io mi voglio chiamare libanese, come sto Spino. Perché il sogno mio sarebbe di fumare sempre e non vedo schifo che c'è intorno. Tu che nome vorresti? Freddo. Perché Freddo? Cazzi mia. Ma che è il nome Freddo? Perché è un nome Dandy. Oh, la polizia! Scappamo, scappamo! 800240024. State cominciando a capire, questo è il romanzo criminale, regia di Michele Placido del 2005, un film trasmesso anche in televisione che ha fatto molto parlare. Questa mattina, visto che nessuno ancora ci è arrivato, perlomeno nessuno sta dando segni di vita, ve lo dico molto chiaramente, parleremo della banda della Magliana. Vedrete cosa c'entra la banda della Magliana nel momento in cui tutti fibrilliamo per le mutande della Clerici. Beh, invece è proprio il momento adatto per parlarlo, un momento che sembra che l'attenzione d'Italia sia tutta concentrata sulla regina di Giordania, a cui viene cantato Sole mio da tre piccoli nani orribili, perché sono in realtà tre bambini con le voci da tenore. È importante questa mattina che ci rivolgiamo a uno dei misteri d'Italia, a uno dei più affascinanti, perché rare volte nella nostra storia patria esiste un canovaccio così intenso, così pieno di particolari, così suggestivo da ispirare una grandissima fascia di fiction, di racconti, di cronache che ogni tanto vanno a rimpolpare la stanchezza dei giornali. Ma è difficile, è sempre stato molto difficile fare un punto realmente su ciò che fu la banda della Magliana dagli anni 70, a metà degli anni 70 a oggi. Qualcuno l'ha fatto Angela Camuso, che è una collega, che ha scritto un libro, Mai ci fu pietà, che è un corposo librone in cui una giovane giornalista racconta parte della sua vita dedicata alla banda della Magliana per gli editori riuniti. Angela Camuso questa mattina è qui in studio con me. Angela, buongiorno. Buongiorno. Ecco, da cosa nasce questa tua passione per la banda della Magliana? Dal desiderio di fare chiarezza o anche tu tratta la suggestione di un nome che rappresenta una delle poche vere epiche criminali nella storia degli ultimi 20 anni del nostro paese? Epiche criminali percepibili, raccontabili, non la mafia, la camorra, l'andrangheta. Sono sempre temi limacciosi, gravi, in cui c'è tutto ma non c'è mai nulla di certo. Sì, l'idea di scrivere un libro sulla banda della Magliana oggi è nata proprio dall'esigenza di voler raccontare la grande storia vera della banda della Magliana, una storia scritta quindi con un linguaggio semplice, con uno stile narrativo, ma nello stesso tempo una storia strettamente fedele agli atti giudiziari, agli atti di istruttoria. Quindi ci sono centinaia di informative riservate di polizia giudiziaria, ci sono i verbali, i singoli verbali dei banditi. Quindi tu non ti sei fermata alle ricostruzioni, alle supposizioni, hai preso tutte le carte scritte e le hai messe in fila, hai tratto un grande romanzo. Esatto, io ho studiato le carte e ho cercato appunto di raccontare proprio al pubblico che si è potuto interessare, che è rimasto affascinato alla banda della Magliana attraverso la fiction, attraverso il cinema, attraverso il romanzo, invece come è andata davvero, cioè qual è stata la storia vera della banda della Magliana, per cercare di fare entrare i lettori dentro la banda. Ecco, tu vedete, si è fatta, che gente era la banda della Magliana? Al di là dei racconti fantastici, anche Al Capone ci sta simpatico, anche i peggiori criminali quando vediamo rappresentati da grandi attori, ma in realtà chi erano questi uomini? Allora, la banda della Magliana è stato un gruppo di banditi che nascono come dei banditi di borgata, quindi loro nascono come dei rapinatori, dei coatti di borgata. Sì, sono rapinatori, ladri di macchine, spesso sono cresciuti insieme nello stesso quartiere e a un certo punto decidono di prendersi la città, quindi decidono di fare un salto di qualità, fanno un clamoroso sequestro di persona tragico che gli porta un... Che anno era? Era il 1978 e fanno appunto il sequestro di Grazioli, l'ostaggio verrà anche ucciso dopo il pagamento del riscatto, ottengono questi grandissimi capitali che investono in eroina, iniziano la loro ascesa e la loro caratteristica è stata che si trattava di banditi molto intelligenti che hanno capito l'importanza dell'investimento finanziario da una parte, l'importanza di scendere a compromessi con... Quindi avevano una mentalità imprenditoriale, si può dire, allontanati un pochino poco dal microfono, ecco, perfetto. Sì, avevano una mentalità imprenditoriale, soprattutto Enrico De Pedis, il famoso Enrico De Pedis, il bandito ambizioso che è seppellito a Sant'Apollinare come E anche come lì noto. Un grande giallo che si aprirà e di cui ancora oggi si parla. Sentiamo un attimo quella che è la ricostruzione della fiction di quello che stai dicendo e tu lo riporterai poi secondo gli atti e i verbali inediti, le informative riservate che tu hai potuto ricostruire. Sto a organizzare una cosa grossa, un sequestro. Sequestro? Ma che te sei impazzito? Mi sono svegliato a freddo. Ma chi può sequestrare? Il barone Rosellini, è pieno di sordi. So tutto di lui, mio padre e mia madre hanno fatto i servi per una vita a casa sua. Mi trattava peggio delle bestie. E i feri? Dumitra, 8 pistole e un fucile a pompa. Dandi non vede l'ora, pure il nero sta con noi. L'altro è tutta gente di strada. Ciro, Bufalo, Ricotta, Scrocchia Zeppi e Piero Lotti. Quanto vuoi chiedere di riscatto? 5 miliardi in contanti. Ma chi ce l'ha 5 miliardi in contanti? Sì, bene. Quella gente che ce n'hanno pure 10. Allora chiedemi una 10, no? Angela Camuso, corrisponde a realtà questa mentalità imprenditoriale? Capiscono che quello è il momento buono in cui possono affondare. Si faranno dare 10 miliardi realmente? No, in realtà no, il sequestro Grazioli non ottennero appunto tutti questi miliardi, ottennero circa 3 miliardi, però insomma erano assolutamente... Erano tanti per quei tempi. Certo, parliamo del 1978 e di fatto la banda della Magliana con questi miliardi invase Roma di eroina, monopolizzò il mercato dell'eroina, quindi i guadagni decuplicarono e questi guadagni furono investiti da una parte appunto attraverso quindi le attività imprenditoriali, cioè, ed è qui che entra in scena anche il famoso cassiere della mafia siciliana Pippo Calò, che appunto riforniva da una parte i banditi della Magliana di eroina e dall'altro cominciò ad essere anche il referente per appunto gli investimenti della... Quindi anche dei fenomeni trattati soltanto come fenomeni sociali, come emergenze sociali, in realtà hanno delle motivazioni ben precise dietro. Improvvisamente il boom dell'eroina a Roma nella fine degli anni 70 fu perché la banda La Magliana aveva capito che bisognava avere una mentalità non soltanto da quattello di paese, da mordi e fuggi, fai soldi e poi me li brucio in gioco e donne, aveva capito che bisogna organizzarsi in maniera strutturata. Sentiamo qualche ascoltatore già che stanno cominciando ad essere interessati. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Ah, buongiorno, senta. No, io avevo chiamato innanzitutto per una cosa. Io sono un cattolico praticante, giusto? Uh-huh. E per quanto riguarda De Petis, trovo veramente allucinante, cioè non lo dico, ma tanto questa cosa ormai ha fatto risonanza da un po' di tempo, il fatto che la sua tomba si trovi in una basilica famosa di Roma, dove il Cardinal Poletti all'epoca dette l'autorizzazione e il consenso di poter essere, diciamo, tumulato all'interno di questa basilica, anche perché adesso, diciamo, si ha difficoltà per un divorziato ad avere le esequie della messa durante nella sua morte, oppure magari per un divorziato ad avere esattamente l'annullamento del contratto di matrimonio dalla Sacra Rota. Quindi è stata cosa. Lei, da cattolico praticante, sa benissimo che ci sono lati oscuri in ogni manifestazione umana, e quindi naturalmente ci sono anche nelle gerarchie ecclesiastiche, nell'organizzazione della Chiesa. Un credente, questo non pone dubbi alla sua fede, però è comprensibile. Sì, le istituzioni, diciamo, portano sempre a degli interrogativi della Chiesa. Lei vuol saperne di più esattamente com'è il punto, dal punto di vista proprio degli atti rispetto al seppellimento. Sentiamo subito Angela Camuso, che questa è la cosa che tutti vogliono sapere, è la più allettante. Sì. Il criminale messo come fosse un santo. Quali sono le virtù eroiche di questo signore per stare chiuso dentro Santa Pollinare? Ecco, appunto, le virtù di De Petis erano state illustrate da Piero Vergari, Monsignor Piero Vergari, che era il reggente della Basilica di Santa Pollinare all'epoca, che scrisse una lettera a Poletti per sollecitare appunto questa sepoltura, elogiando De Petis come un benefattore, soprattutto una persona attenta all'educazione dei giovani. In realtà cosa aveva fatto? De Petis è stato, come sappiamo, ucciso a Via del Pellegrino nel 90 dai suoi ex compagni per vendetta, in quanto appunto ritenuto l'esecutore, il mandante di numerosi omicidi sia maturati nei primi anni della banda, che servivano per avere appunto il potere, per conquistare il potere, perché il potere che ebbe la banda, il potere criminale che ebbe la banda, lo conquistò ammazzando i concorrenti sul mercato dell'eroina, ammazzando le persone che la mafia siciliana aveva necessità di eliminare, ammazzando degli ottimi esecutori di questo tipo di lavoro. Esatto, quindi De Petis anche se appunto è morto prima che potesse essere giudicato in via definitiva per questi delitti, De Petis, voglio dire, su De Petis ci sono fascicoli e fascicoli. Ma tu che idea sei fatta? Perché De Petis, un criminale, ha questa ambizione di essere seppellito dentro una basilica e fa di tutto, paga, avrà dato dei soldi, avrà fatto qualcosa, perché non credo che gratis ce l'hanno messo. Aveva un carattere particolare, era un bandito che aveva delle ambizioni, aveva delle velleità. In realtà tutti i banditi della Magliana sono un po' dei personaggi, se si può dire, pasoliniani, che cercano il riscatto sociale, nascono, cioè sono figli maledetti del popolo e della miseria. De Petis aveva appunto queste velleità, tant'è che chiese alla moglie, appunto forse aveva un presentimento, le disse guarda, io appunto quando mi tocca voglio essere seppellito lì. E la moglie, per esempio, era una donna di buona famiglia, quindi anche la scelta del matrimonio riflette un po' queste ambizioni di De Petis. La cosa che preoccupa Stefano, che adesso poi ci farà la sua seconda domanda, è che qualcuno l'ha accontentato. Dalle carte e dagli atti, cosa risulta? Quale risulta che sia stato il prezzo per ottenere questo? Forse un grande pentimento, perché questo è comprensibile nell'ambito della dottrina cattolica: il peggiore dei peccatori che si pente ha pieno diritto di riacquistare la sua dignità. Ecco, dalle carte e dagli atti emergono due cose interessanti che non spiegano del tutto il mistero, ma che possono, diciamo, in qualche modo illustrare un percorso. Allora, Piero Vergari, appunto il monsignore che sollecitò il pentimento, era stato ai tempi d'oro della banda l'aiutante del cappellano titolare a Regina Coeli, che si chiamava Gianfranco Girotti, il quale attualmente oltretutto è reggente della penitenzieria apostolica vaticana, che è la massima autorità morale della Chiesa, quindi al vertice delle gerarchie. Esatto, ufficiali. E Girotti fu inquisito insieme ad un altro sacerdote, che fu addirittura arrestato, fu intercettato per i reati di appunto interesse privati, in atti di d'ufficio e appunto abuso d'ufficio, perché appunto considerato da diversi pentiti come colui che portava in carcere detenuti droga, radioline. Ma questo è accertato, soltanto lo dicono i pentiti? Lo dissero i pentiti, la polizia fece le indagini, intercettò Girotti e quest'altro prete che si chiamava Persinzi, che fu arrestato, e scoprirono per esempio i poliziotti che Girotti telefonava, aveva dei contatti telefonici con Enrico Nicoletti, il banchiere della banda della Magliana. Ecco, questo è il nome che accomuna la mia esistenza, non reale ma soltanto dal punto di vista del cognome. Ho avuto molti problemi, i primi anni che stavo a Roma chiamavo, mi ricordo, ai colleghi della RAI, dico sono Nicoletti, ancora nessuno mi conosceva e nessuno mi rispondeva. Un giorno mi ricordo un collega spaventatissimo, dopo settimane, e chiamò dicendo scusami tanto, ma siccome avevo fatto un pezzo a banda della Magliana, ha fatto che chiamasse Nicoletti, mi aveva costretto a prendermi una settimana di ferie. Sì, dicevo appunto, l'altro sacerdote che fu inquisito insieme a Girotti invece si scoprì che parlava diciamo apparentemente in amicizia con uomini di Pippo Calò. Le indagini poi a un certo punto si arenarono, non si riuscì a dimostrare, no, la corruzione, anche se i pentiti dicevano che quando andavano a parlare con il prete gli consegnavano appunto i pacchetti, cioè dall'esterno, no, c'era qualcuno che consegnava al prete i pacchetti da portare poi ai detenuti, e in questi pacchetti, in alcuni di questi pacchetti c'era appunto una busta che era appunto l'offerta per la chiesa. Fermiamoci un attimo perché gli ascoltatori, che stanno già in linea parecchi, vogliono intervenire. Vorrei che ci spiegassero, visto che è importante, che è interessante il racconto che sta facendo Angela Camuso, qual è secondo loro il fascino di questa banda Magliana. Vedete quanti intrecci ci sono, sembra un romanzo di Dan Brown, sembra qualcosa di maledetto allo stesso tempo che sa di polvere da sparo, di incenso, di puzza dei soldi, di qualcosa legato a sentimenti così forti, così contrastanti, per il cui fatto moltissimi artisti, registi e romanzieri hanno intinto la penna nella banda Magliana. Stefano, devo aggiungere qualcosa? Poi la saluto. Pronto? Sì, Stefano, devo aggiungere qualcosa. Buongiorno, sì, è molto interessante il discorso fatto, il racconto dalla signora. Cioè, io le volevo dire soltanto una cosa e chiudo per dare spazio agli altri. Ho letto parecchie cose della banda Magliana, non ultimo l'ultimo libro di Otello Lupacchini, che è stato uno dei magistrati, insomma, che ha fatto delle indagini da questo punto di vista. Ho visto il film. Ecco, la domanda che io voglio fare a voi è una domanda un po' diciamo lunare, sì. Cioè, nel senso che esiste. È questo. Io dall'allineamento di tutti quanti diciamo le persone che facevano parte della banda della Magliana, quindi tutti i ritratti, sì, che venivano fatti singolarmente, ho visto che era gente che comunque anche dalla TV, e quindi fedelmente rispecchiava quello che poi diciamo erano i testi, fedelmente vedevo delle persone non geniali dal punto di vista diciamo della metodica, oppure dei rapporti che si potevano avere con i grandi, cioè, con i grandi politici eccetera. Vedevo delle persone che parlavano soltanto di puttane, cioè sniffavano, facevano queste cose. Pratica... Quindi ecco, ho capito la domanda. Lei non vede dove sia veramente questa genialità criminale, non vede il personaggio, il grande vecchio, non vede il burocrate, il pensatore, che era la mente illuminata della banda Magliana. Lui dice vedo solo coatti, ma chi è che aveva questo intuito di capire che era importante tessere una rete così capillare? No, no, attenzione, i banditi della banda della Magliana avevano un intuito criminale straordinario, nel senso loro si fecero avvicinare da tutti coloro che avevano interesse ad utilizzarli come mercenari. Quindi i banditi della banda della Magliana furono contattati dai servizi segreti, furono contattati dai politici per la liberazione di Aldo Moro, il loro arsenale di armi era anche a disposizione dei NAR, e di lì si spiega poi il motivo per cui una dei mitra che era contenuto nell'arsenale, appunto nel famoso deposito al Ministero della Sanità, poi fu ritrovato sul treno a Bologna, e fu, insomma, quando si tentò di fare il depistaggio per la strage di Bologna. I banditi della banda della Magliana corrompevano periti per avere perizie compiacenti che poi gli servivano. Quindi per ottenere... sapevo fare. Dobbiamo interromperci solo un attimo, però scusami Angela, perché devo dare la linea all'informazione della borsa. Mi sembra che dal leasing delle armi da fuoco a essere sempre disposizione per chiunque, per la parte oscura della forza ma anche per quella apparentemente limpida, già denota che avevano comunque un sesto senso nell'azione criminale. Melog 2.0. 1.300 da dividere. 100 milioni a testa, rimangono 100. Andiamo a sputtana bischi e mignotte e cocaina. Stavo pensando. Credo è giusto, ognuno c'ha le sfizi sua. Stecca vera per tutti, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte. Invece da pesce poco, in tanti, c'è tanto. insieme. Questa è un'ottima base, eh? Sta base ci serve per far che? Per piace quello che se vogliamo piacere a tutti. Che se vogliamo piacere a tutti? Roma. Un po' ci sono anche riusciti quelli della banda La Magliana a prendersi Roma, parte di Roma, o hanno controllato capillarmente alcuni episodi che hanno determinato mutazioni sociali, intrighi, intere pagine di giornali. Stiamo parlando della banda La Magliana, ne parliamo con Angela Camuso, una giornalista che ha scritto un libro per Editori Uniti, Mai ci fu pietà. La banda La Magliana dal 77 a oggi. Stavamo definendo quella che era la realtà criminale della banda La Magliana, un gruppo di coatti di periferia, con l'ideale tipico del coatto di periferia romana, del riscatto, della riconquista della sua dignità intesa nella possibilità di fruizione smodata di beni di consumo voluttuari, ma unite anche a una furbizia, a una particolare propensione per mettere a frutto alcuni loro talenti. Primo, la spietatezza. Angela Camuso, infatti, intitola il suo libro Mai ci fu pietà. Sentiamo qualche ascoltatore, perché sono in tanti questa mattina, ciò dimostra quanto siano entrati ormai nella mitologia criminale i componenti della banda La Magliana. Sono molti e documentatissimi gli ascoltatori. Francesco. Sono Nicoletti. Buongiorno. Buongiorno alla signora. Buongiorno. Io dicevo, primo, ma non si può andare a vedere dentro quella tomba chi c'è o che, primo. Poi c'è un filo... Lei parla della tomba di Renatino de Pedis all'interno della Basilica di Santa Apollinare, dove stiamo discutendo il perché e il per come sia stato da altissimi prelati messo nel luogo dove normalmente stanno santi. Nicoletti, c'è un'attinenza anche al rapimento della Orlandi con la banda... Cioè, non è che adesso c'ho il risico della banda della Magliana, lo so dire. Lei fa questa domanda, se ne è parlato molto nei giornali, adesso con la nostra ospite le dirò quello che c'è di accertato, di sicuro, perché quello che è importante questa mattina. Ci piace galleggiare nella realtà romanzesca, ma siccome si dice tutto il contrario di tutto, è bene attenersi a ciò su cui ci sono prove certe. Però cos'altro voleva sapere? No, ecco, volevo sapere appunto che il Vaticano non dà l'ok per aprire quella sì, questa è, diciamo, sì, è la domanda tradotta in termini molto, molto semplici che tutti si fanno il perché non si può aprire il famoso sarcofago per vedere dentro cosa c'è, chi c'è nascosto. Tutti immaginano di trovare anche dei segreti e delle chiavi. Cosa ne pensi te, Angela Camuso, rispetto a questo episodio? Che mi sembra quello che emotivamente colpisce di più. Sì, ma io sul perché il Vaticano non dia il permesso, il perché appunto la procura non decida comunque di una riesumazione del cadavere, perché di questo si tratta. Queste sono questioni ovviamente che insomma non posso essere io a rispondere, nel senso ci sono questioni teologiche anche, voglio dire, da considerare, eccetera. Io personalmente non credo che ci saranno grandi sorprese aprendo quella tomba, credo che lì ci sia davvero appunto Enrico de Pedis. Quanto diciamo alle connessioni tra il sequestro Orlandi e appunto la sepoltura e comunque il coinvolgimento della banda della Magliana sul sequestro Orlandi, io quello che posso dire è quello appunto che è noto, cioè che c'è un'indagine in corso da parte della Procura di Roma, iniziata con le dichiarazioni dell'ex amante di De Pedis, Sabrina Minardi, le cui dichiarazioni sono state ritenute dal procuratore aggiunto Capaldo attendibile, lo ha detto anche pubblicamente appunto durante una conferenza stampa di presentazione del mio libro, appunto c'è questa attendibilità e ci sono anche dei primi riscontri. Ci sono due pentiti storici della banda della Magliana già considerati attendibili perché hanno portato delle sentenze di condanna passato in giudicato, che sono Abbatino, detto Crispino, o se si vuole Freddo, insomma se vogliamo diciamo, voglio dire, paragonarlo al personaggio della fiction, e Mancini, detto Laccattone, e Laccattone perché lui era innamorato del personaggio Accattone di Pasolini, lui era proprio il classico tipo che voleva avere tanti soldi per bruciarseli tutti. Quindi avevano la loro mitologia reale, con supporti concreti, Pasolini. Assolutamente, avevano la loro mitologia reale. Poi, cioè, io appunto sono riuscita a capire anche un po', voglio dire, per quello che è stato possibile dagli atti, un po' anche il carattere, no, di questi banditi, almeno per esempio Abbatino, no, che poi che viene poi rappresentato dal Freddo, anche se poi, ripeto, la fiction, il romanzo e il cinema mischiano le storie, cioè sono una ricostruzione fantastica di quello che è stato. Lo sai, no, che vendono via del Corso a Roma le magliette con tutte le foto, sì, dei personaggi della banda della Magliana. Io credo che sia, voglio dire, naturale. Non sbattere sulla, io credo che sia naturale nel momento in cui si fa una riproduzione fantastica di una realtà criminale, sia naturale, voglio dire, anche attuare quei meccanismi di mitizzazione, farli diventare belli e dannati. Voglio dire, gli attori di romanzo criminale sono anche dei bei ragazzi, quindi è normale che ci si innamori anche di questi personaggi. Erano degli schifosi infami criminali, diciamo la verità. Erano degli assassini spietati, cinici, che avevano, diciamo, voglio dire, l'unico loro interesse era quello appunto di restare liberi per poter continuare a delinquere e poter continuare a guadagnare soldi. Sentiamo un attimo Pierluigi. Pierluigi, se no perdiamo il contatto con gli ascoltatori. Pierluigi, buongiorno. Pierluigi? Mi sente? Sì, ecco, si fermi, però non si muova, sennò cade la linea. Va bene. No, niente, io insomma volevo intervenire proprio su questo punto della mitizzazione di questa banda che si è fatto. Insomma, ovviamente non ho letto il libro della sua ospite. Lei cosa ha percepito dal cinema, dalla fiction, dai giornali? Qual è l'impressione su di lei? In realtà si sono oscurate degli aspetti della banda della Magliana, che uno su tutti è il fatto che loro, tra virgolette, sono stati anche dei servitori dello Stato, nel senso che hanno avuto dei contatti poco chiari con i servizi segreti. Però i servizi, per loro definizione, possono servirsi di tutto ai fini del bene dello Stato. C'è sempre stata questa zona grigia in cui... Molto spesso sei solo serviti per ammazzare, per commettere degli efferati delitti e... Cioè io, guardi, non voglio difendere né sembrarle cinico, ma uno dei compiti delle intelligence di tutti i paesi del mondo è anche fare questo, eh. È brutto, sì. È sporco dirlo, ma fanno anche questo. Il problema è il fine, appunto. Se per esempio, anche il fatto, ne parlavate prima di far invadere, no, Roma dall'eroina, in realtà ovviamente, diciamo, diventa questo anche un fatto mitologico, che può essere... No, questo è reale. Loro con i soldi del primo sequestro hanno fatto tanti soldi, hanno comprato eroina e l'hanno buttata su... È stato, diciamo, funzionale a una, diciamo, al fatto che in quel tempo i servizi segreti e una parte dei servizi pensavano che che l'eroina fosse un buon metodo per tenere buona tutta una generazione che si stava ribellando. Sì, è un po' questo, sono quelle dietrologie. È lecito che lo pensi, ma mi sembra che ci sia un controllo così capillare su ogni fenomeno sociale. Allora Mary Quant ha inventato la minigonna invece per rialzare gli istinti e per mettere il rilancio dell'attività fornicatore. Non so, possiamo inventarci quello che vogliamo, se vogliamo. Passiamo a Manuel. Sì, buongiorno. Così diamo un po' un insieme di possibili risposte al nostro ospite. Manuel. Buongiorno Nicoletti e buongiorno anche alla sua ospite. Ma io... Mi sente? Sì, come no, benissimo. Ok, perfetto. Io volevo sottolineare il fatto di questo discorso relativo alla cooperativa del crimine. Perché poi la banda della Magliana effettivamente già nel suo modus operandi, relativo al famoso discorso della stecca para, da dividersi equamente, già connota un discorso di uguaglianza sociale e di un riscatto sociale. E poi anche di una forte presenza, ovviamente, come già stato sottolineato, all'interno dei quartieri di Roma. E ogni quartiere poi aveva una connotazione, un collegamento con quello che erano altri gruppi avversivi del tempo. A Ostia c'era Nicolino Selis con la Camorra, poi c'era Daniela Bruciati al testaccio con Inar, con i gruppi avversivi di destra. Lei cosa fa nella vita, Manuel? Che cosa è informato? Guarda, io sono ingegnere, ma sono un fortissimo appassionato della banda della Magliana. Ho letto anche il libro di Bianconi. Ah, un magnanologo. Oh, vedo che c'è la categoria, sì, rappresentata. Oh, sì, ecco, grazie del termine, lo accetto molto molto volentieri. Beh, sono quelli che si appassionano a Star Trek, è giusto che qualcuno si appassioni anche ad altri episodi più vicini alla nostra realtà. Sì, no, assolutamente, guardi. E poi, ecco, mi permette di sottolineare il fatto, tra i vari collegamenti, anche per, appunto, per il discorso del discorso della cooperativa, della ramificazione, che a mio avviso poi la banda della Magliana ha costituito anche una delle tante ombre, dei tanti grandi vecchi che hanno influito, vuoi direttamente vuoi indirettamente, sulla società italiana. C'è anche da dire il famoso l'uccisione, come morì Daniela Bruciati, che morì a Milano, quindi in un territorio completamente a lui, non noto, non conosciuto. Fuori casa, in trasferta. Esattamente, e morì per un attentato al vice direttore, se non sbaglio, del Banco Ambrosiano. Esatto, il dottor Rosone del Banco Ambrosiano. Quindi anche qui collegamenti con quello che poi era il discorso Calvi, il discorso Sindona, e dopo qui si aprono mille ipotesi di cui... Grazie ragazzo. Angela Camuso, un istante prima di dare la linea alle informazioni del traffico, conoscevi te l'esistenza di questo gruppo di appassionati della banda della Magliana? Vedi questo signore, solo per sua passione di letto, come quelli che collezionano libri su Napoleone, lui colleziona storie sulla banda della Magliana. Sì, me ne sono accorta, su Facebook ci sono tantissimi che mi scrivono, tantissimi appassionati, tantissimi conoscitori della banda della Magliana. Io posso dire all'ascoltatore che ha parlato adesso che leggendo il mio libro potrà scoprire tutta una serie di dettagli finora inediti che riescono in qualche modo a togliere un po' questo velo di mistero su quelle che sono state le connivenze la banda con i pezzi dello Stato, perché appunto io racconto attraverso le carte davvero quali sono stati i contatti, e non si tratta di ipotesi, si tratta di fatti, almeno di fatti che possono che possono sicuramente costituire un canovaccio poi per chiunque per fare delle ipotesi, ma ci sono dei fatti molto certi che io ho potuto raccontare appunto attraverso lo studio delle carte. Melog 2.0. Guardami un attimo, ha sbagliato, lo so. È stato come prendere in prestito una cassa comune. Ma vi dico tutto. Io lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Di chi mi devo fidare? Degli amici come te? Non succede più. Aiutami, no? Vi dico tutto fino all'ultima lira. Ormai lo sanno tutti quello che hai fatto. Te capisco, c'hai ragione. Però io e te al carcere avevamo diviso tutto. Il callo, il freddo, la fame, i pitocchi. E a te ti ho sempre detto tutto. Eppure stavolta te volevo parlare. Perché avevo saputo chi è che aveva dato la roba a tuo fratello. E il sorcio gli aveva data. Se io voglio faccio io il servizio. Che devo fare? Dimmi. Io sogno e me ne vado in Brasile e sparisco con Sonia. Che devo fare? Dimmi. Famo così, fattene in Brasile con Sonia. Però non devi più tornare. Hai capito? Devi sparire per sempre. Aldo. Per sempre, te lo giuro, per sempre. Abbracciami. Dammi un bacio, poi vattene a fanculo. Grazie, grazie. Angela Camuso, cosa è successo in realtà? Sì, qui appunto c'è un amico che ha ucciso un altro amico e questo è successo davvero, non è successo in quel contesto come viene rappresentato nel film, non c'è, i personaggi sono altri, ma la banda è finita non soltanto per i clamorosi pentimenti che ci sono stati, ma proprio per questa faida terribile interna. Amici hanno caricato pistole silenziate contro altri amici e ci sono state delle vendette terribili che sono state servite fredde, appunto mai ci fu pietà. E questo è realmente quello che accade in quel contesto di coattume. Alla fine, quando fanno i soldi gli amici di strada, gli amici di borgata, gli amici di scippo, gli amici di piccolo papponaggio, è pasoliniana la storia. Poi vanno uno contro l'altro perché i soldi li fanno impazzire, la droga li fa impazzire, e come accade nelle famiglie quando c'è da spartire il patrimonio di famiglia, cominciano a mangiarsi l'uno l'altro. Esatto, l'avidità, l'arroganza, l'invidia. La cocaina, che comunque aveva stravolto il carattere. Era anche impazziti di coca, c'è anche questo. Sì, erano chiaramente esaltati, la cocaina era il pane quotidiano, era il digestivo, dicono loro stessi. E appunto l'avidità li ha autodistrutti, cioè tutti gli omicidi ci sono stati proprio a causa di queste, voglio dire, di queste pretese di denaro, proprio perché a un certo punto qualcuno inizia a non rispettare i patti, a non dividere. Senti, nella ricostruzione della fiction che abbiamo sentito, è realmente espresso questo clima, perché l'amico quasi gli dà la polpetta avvelenata di grazia, gli fa credere fino all'ultimo istante che lui, nonostante che abbia fatto l'infame, abbia tradito, ha una via d'uscita, può andarsene via con la sua donna, ci abbraccia, dammi un bacio, l'altro è contento, quindi lo ammazza in un momento in cui non è terrorizzato dalla vendetta, c'è un gesto umanitario, gli spara quando quello finalmente è rilassato, cioè ce l'ho fatta questa volta. Ma sì, ma voglio dire, ci sono episodi reali che sono successi, che sono agghiaccianti. Cioè, nel senso, i banditi andavano magari a brindare in un bar, per esempio nel libro c'è anche scritto quale bar, per esempio in quale bar erano andati a brindare con colui che dovevano uccidere. Ci sono delle scene, è una forma di eutanasia tipica della criminalità, questa si vede anche in molti film e si legge. devo ammazzare una persona, gli do la dignità di morire senza che sappia che sto per ammazzarlo, che è una grande grazia. No, lì serviva soltanto perché lo dovevano attirare nella trappola, nel senso che il modo tipico di ammazzare gli amici era quello di dire: dai, vieni con me, andiamo a fare un giro, andiamo a prendere il carico di roba, facciamo questo, facciamo quell'altro. Addirittura Nicolino Selis viene ammazzato appunto dai suoi amici, e il giorno prima gli scavano la fossa addirittura, e poi architettano tutto, addirittura vanno a mangiare a casa sua con la madre sapendo che lo dovevano ammazzare. È veramente agghiacciante questo, sono scenari agghiaccianti. Io devo dire la verità che mi sono in qualche modo anche impressionato. Qual è la cosa più ti ha impressionato leggendo le carte? La cosa più efferrata, quella che veramente hai detto che era illeggibile? Ma per esempio c'è stato l'omicidio di un tale che si chiamava Caruso, che era stato ucciso appunto nel contesto di questa lotta per la conquista del territorio, che doveva essere strangolato da Claudio Sicilia, un altro appunto bandito poi diventato pentito, che non era esperto di pistole, si era portato un filo elettrico per strangolarlo, però non ci riuscì perché lui si dimenava come un'anguilla. Allora arrivò l'altro bandito, che aveva comprato per l'occasione un bel coltello intarsiato, e gli diede 30 coltellate alla gola, uno lo teneva fermo e l'altro lo uccideva, lo scannava. Questo è un episodio agghiacciante, ma ci sono anche episodi agghiaccianti dal punto di vista proprio della psicologia, cioè dei personaggi. Per esempio c'era Batino, che doveva ammazzare appunto un suo ex compagno, lo aspetta fuori la porta, dietro la porta, la pistola gli si inceppa, lui si accorge che gli stavano sparando e lui gli fa: ci sei cascato, stavo scherzando. Lui si rilassa, boom, e rispara e lo uccide. Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. La domanda velocissima che fra un po' chiudiamo. Velocissima, visto che mi sembra che sia proprio come un film tipo Le Iene, volevo sapere, io sono ignorante in materia, che fine hanno fatto tutti questi componenti? Come nei titoli di coda di un film che si vede questo è diventato senatore, l'altro è morto per overdose, eccetera, eccetera. Ecco, ad esempio mi domando il mio omonimo Enrico Nicoletti, io vado alla Casa del Jazz ogni tanto a sentire qualche bel concerto, una villa meravigliosa, fuori delle mura aureliane mi sembra, immersa nel verde, stupenda, un parco, pensa qui ci abitava Nicoletti. Tante volte entro, perché ho gli inviti, quindi c'è il pass pronto, mi dice il suo nome per il pass, dico Nicoletti, vedo la guardia che mi guarda agghiacciato. Ecco, che ne ha fatto Enrico Nicoletti? Enrico Nicoletti è vivo, è libero, è in attesa di giudizio per associazione mafiosa e riciclaggio, sia a Roma che a Napoli, per i soldi dei casalesi, insieme ai due figli Massimo e Toni. Enrico Nicoletti è indicato tuttora in moltissime informative di polizia giudiziaria come colui che finanzia da una parte a Roma il traffico di droga e dall'altra che viene utilizzato appunto come lavatrice dei capitali sporchi. E gli altri? Gli altri abbiamo per esempio Giorgio Paradisi, che è morto nel carcere di Secondigliano, però prima di morire è stato scoperto che gestiva un traffico di cocaina dalla Spagna a metà del 2000, quindi parliamo soltanto 5 anni fa, insieme al fratello di Giuseppucci, il bandito ammazzato. Ma si può dire allora che ancora esiste la banda della Magliana? Ma io credo che esista sicuramente il modello imprenditoriale, di criminalità imprenditoriale inaugurato da Renatino. Esistono delle isole che riproducono in piccolo quello che è stata la banda della Magliana. Non esiste più la banda della Magliana che conosciamo, che è stata l'unica e vera mafia romana, secondo me è rimasta senza eredi. Allora, Angela Camuso, ricordo, autrice di Mai ci fu pietà, Editori Uniti. Visto che ci sono tantissimi, vogliamo parlare con te. Hai un luogo, un appuntamento dove tu sei reperibile e possono venirti a incontrare i tuoi fan, visto che sei diventata l'eroina del racconto della banda della Magliana? Ma intanto posso dire che il 2 marzo alle 20:30 da Bibli ci sarà una presentazione del mio libro, ci saranno degli ospiti, si potrà insomma intervenire, ci sarà un dibattito. Il 10 marzo invece alla libreria Rinascita della Garbatella, invece Bibli, la libreria Bibli a Trastevere. Beh, visto che ci sono dei maglianologi melogmani che ce lo chiedono questa mattina, noi diamo a loro appuntamento, che troverete Angela Camuso in questi luoghi quando vorrete, e se volete sapere altro telefonateci. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.